Salve a tutti e a tutte. La giornalista, scrittrice e conduttrice di Fahrenheit alla radio, Loredana Lipperini, ha ripubblicato sul suo blog la lista degli editori a pagamento. E questo ha suscitato di nuovo un dibattito, spesso dai toni feroci e anche malsani, da parte di editori e di presunti autori che vedono in questa lista una sorta di denuncia non legittima. Io vorrei affrontare il problema da un altro punto di vista. Vorrei parlare del lavoro della conoscenza che riguarda editori quanto scrittori. Un editore è un imprenditore rispetto a uno scrittore che è un operaio della conoscenza. Cosa significa essere imprenditori da un punto di vista culturale? A rigore dovrebbe significare che il soggetto in questione debba rischiare in proprio, debba investire su un autore, sulla sua creatività e sul suo talento, prendendosi cura della scrittura che arriva, operando editing e successivamente creare un sistema di promozione e di diffusione della scrittura diventata libro. Su ogni punto di questa attività la piccola editoria incontra diversi problemi. Alcuni, a mio avviso, sono affrontabili, altri, se non sono affrontabili, possono trasformarsi in patologie del sistema e ripetere un meccanismo di consumismo del bene culturale che non fa bene né alla cultura e né al concetto stesso di industria dei contenuti. La patologia che io vedo è proprio nella mancanza dell'editing rispetto a tantissimi testi che, se pubblicati con il sistema del print on demand, operato dall'autore in proprio o gestito appunto dall'editore a pagamento, produce una squalificazione della scrittura, dell'autore e anche dell'editore. Pensare che il proprio operato diventi immediatamente una qualità di scrittura è una presunzione che andrebbe almeno discussa. E promuovere il print on demand come forma di democrazia della creatività è un'assurdità di questo sistema che squalifica, non nobilita il lavoro. Mancare di un appoggio e di un apporto critico del lettore esperto significa fondamentalmente essere autori di un oggetto che è lo specchio e il riflesso del proprio narcisismo. Significa immaginare che il libro è una sorta di status symbol che ci fa acquisire una sorta di fama, una sorta di gloria che in realtà è effimera ed è anche menzognera. Il problema vero è la mancanza di rispetto nei confronti del lettore. Se il destino di ogni libro è la lettura, quel lettore, ideale o reale, andrebbe preso in considerazione come un soggetto degno di rispetto. Perché mai dovrebbe leggere un libro brutto, scritto male, frutto di un narcisismo e non il risultato di un lungo lavoro e di un impegno che chiamerei etico, estetico e letterario insieme? Abbiamo veramente bisogno di più scrittori e di più scritture? O in realtà avremmo più bisogno di far crescere l'amore e l'educazione per la lettura? La lettura è un valore mancante, è un buco nero all'interno della nostra società. Io credo che quindi il problema della lista posta in evidenza da Loredana Lipperini non sia tanto quello di lasciare liberi i presunti autori e i presunti editori di fare del libro una merce, quindi soggetta esclusivamente a trattative commerciali, ma di ribaltare il problema e di cominciare a chiederci realmente se la scrittura, il leggere e il mondo della cultura sono un oggetto di consumo o un oggetto di utilità e di crescita personale e collettiva. Un modo di affrontare quindi il problema che esula dal discorso del print pagare e dalla trappola piuttosto facile di pensare che la libertà sia fondamentalmente un'attività senza regole. Grazie.